Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono convinto del fatto che ad oggi sicuramente il protocollo in vigore sia ancora un protocollo, il protocollo giusto da tenere, da adottare, che va chiaramente rispettato da tutti con il massimo rigore. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non dare 3-0 al Napoli al tavolino è un invito a non rispettare i protocolli, un bel precedente, bravo. Volevo chiedervi una cosa, ma un giocatore come Godin non avrebbe fatto comodo al Milan, visto la situazione della difesa? Scusate una domanda, ma la prossima giornata di campionato si gioca o non si gioca? Ma non era Elio che cantava "Ti amo campionato" perché non sei falsato? Allora sei falsato. Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi eri sembrato falsato, ma han detto che non sei falsato, ha detto Umberto Agnelli che sono state solo delle... Primo applauso di giornata va a Gianmarco Ferronato che è un genio, il nostro regista, Lorenzo Nespoli in redazione. Io trovo il venerdì i miei compagni di viaggio, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo in... Ciao. Viaggio, credo di ritorno da Macerata, giusto? Sì, sì, ritorno alla Macerata, dove poi credo ci collegheremo anche, no? Sì, ci collegheremo con Dario Ricci, con Antonio Cabrini più tardi, dopo la borsa. Intanto vi faccio fare un radio tweet a testa, parto da oggi da Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, guarda, intanto non un applauso ma una standing ovation per Gianmarco Ferronato. Il mio radio tweet è lo copio, mi autodenuncio, è di 5 minuti fa, è il comunicato ufficiale con cui il Milan racconta un bilancio negativo di 195 milioni che si è chiuso il 30 giugno 2020. Il club non è stato immune dagli impatti negativi sulle proprie performance finanziarie ereditate anche dalla situazione precedente a causa del Covid e della pandemia, e i risultati dell'esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati. Ora stiamo parlando di un rosso da 195 milioni di euro, abbiamo raccontato il rosso della Juventus da 90, abbiamo letto il rosso della Roma da 204, leggeremo del rosso pesante dell'Inter. Io credo che debba essere la stella polare che ci deve guidare nel ragionamento su tutto quello che abbiamo sentito nella copertina. Non è il tema del campionato falsato o non falsato, certo che non è bello stilisticamente questo campionato, e oggi abbiamo altre notizie da dare. Il tema è del campionato e quindi la sopravvivenza, o del nulla e quindi il baratro. Perfetto. Grandi protagonisti siete, oltre a chi sta parlando, voi. 800240024, Pier. Io lo faccio sul piano B, perché insomma, una delle caratteristiche del Covid è la sua assoluta capacità, purtroppo in questo caso, di cambiare molto, e insomma abbiamo avuto in due giorni praticamente i casi raddoppiati. Ci auguriamo che si torni su sistemi lineari, su un andamento lineare come quello che c'è stato per lungo durante tutto il mese di settembre, ma non abbiamo più la certezza che sia così, per cui secondo me, visto che siamo all'inizio, siamo ancora in corsa, il piano B pensiamolo, ho la speranza poi di non utilizzarlo, di non doverlo utilizzare. Sai che mi piacciono pochissimi playoff, mi piacciono ancora meno se vengono decisi a metà stagione. Siamo ancora in un ambito dove è ragionevole poter pensare a delle opzioni alternative qualora la situazione dovesse, ci auguriamo di no ovviamente, degenerare. Quindi insomma, assieme al protocollo che va rispettato sicuramente, in questo momento ci vuole un po' di flessibilità, e secondo me stabilire un'eventuale regola certa in caso ovviamente di nuovo lockdown o comunque di situazione insostenibile nei prossimi mesi, quando ci si rendesse conto che 38 partite pizzeria quest'anno non si riescono a fare, secondo me non è sbagliato ed è giusto farlo adesso. Sì. Ovviamente come subordinata, come ipotesi, certo, emergenziale. Certo, no, di estremo buon senso, ma poi parliamo anche del fronte europeo, dove invece lì non sono particolarmente d'accordo. Franco Ordine, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Ciao a tutti. Le notizie. Ti voglio far commentare. No, sì, sì, certo che voglio il tuo. Vai. Vorrei che l'ufficio stampa del Milan mandasse il comunicato alla AS 1 e 2 di Napoli. Ah, così? Sì. No, perché si devono rendere conto che giocare a nascondino, giocare su questi argomenti, sì, puoi godere di fama e di popolarità quando vai dal salumiere o dal panettiere a prendere i quattro panini che servono per casa, ma i danni che procuri sono quindi, questi. Quindi sei d'accordo con Giovanni che dice l'alternativa è questa, o gravi difficoltà o il nulla? Certo, è evidente. Intanto, a proposito di gravi difficoltà, oggi le notizie a cui Giovanni faceva riferimento sono che ci sono altri due positivi in prospettiva derby, che sono Gabbia e siamo a 3 con l'Under 21, e Radu nell'Inter e siamo in questo caso a quota 5 questa stagione, quindi 5-3 per l'Inter, insomma 5 positivi all'Inter, 3 nel Milan, non mi da dire in vantaggio questa stagione. Però è evidente, scusami Carlo, sì, che qui il come dicono quelli che parlano bene, il cluster era all'Under 21, e cioè qui il problema di fondo secondo me è questo, è per cui io penso che al di là, e prima ancora di pensare al piano B per i campionati, secondo me bisognerebbe pensare a un piano Z per i raduni delle nazionali di tutto il mondo. In questa stagione che sembra la Parigi-Dakar, cioè una corsa estrema, qualcuno dice, Giovanni, che almeno le amichevoli delle nazionali si potevano evitare, ma l'UEFA ha fatto, mi sembra, una precisa scelta politico-sportiva di normalizzazione dell'attività, per cui le coppe si giocano andata, ritorno, in casa, in trasferta, eccetera, eccetera, so, si comincia tra poco e le nazionali giocano. I diritti televisivi venduti a una certa cifra. Sì, sì, sì, però l'UEFA... La UEFA ha fatto l'anno scorso la scelta di sacrificare tutto, sì, perché questa è la scelta che poi di fatto ha consentito alle stagioni, a parte la Francia, diciamo, tra le leghe top, alle stagioni, ai campionati, poi anche ad agosto, concentrando le due Final Eight, ha consentito alla stagione di chiudersi regolarmente. Il non detto, ma che di fatto era stato annunciato, è che per il 2020-2021 non ci sarebbe stato lo stesso tipo di approccio, e quindi non dobbiamo sorprenderci che ci siano la Nation League, i playoff per andare all'europeo e anche le amichevoli. Il problema è che bisogna fare una riflessione. Io non credo che l'Under 21 abbia un cluster, ho qualche sospetto in più su quello che è successo e sta succedendo dentro l'Inter, perché Bastoni arriva di fatto contagiato dall'Inter, nel senso dalla sua permanenza a Milano. Scusami Giovanni, io dicevo il problema è che queste trasferte e questi ritiri stanno portando in giro anche le criticità, è questo, insomma, si è sviluppato lì, e quindi il problema non è il povero Bastoni, ma il problema è Bastoni che va al raduno dell'Under. Se non ci fosse stato il raduno dell'Under, sarebbe uscito Bastoni, ma non ci sarebbero altri tre contagiati da altre parti. Capito? Sì, mi perché sembra ce n'è un altro, no, tra l'altro, non solo Gabbia. Estrema confusione, Pier. No, ma questa è esattamente la vita ai tempi del Covid e di queste ore, nel senso che se non ci fosse stato il raduno, sì, certo, se non ci fosse stato il raduno non ci sarebbero stati tre contagiati, ma al tempo stesso cioè, è praticamente impossibile riuscire a fermare il contagio, soprattutto nel momento nel quale la diagnostica non è, ma non per colpa dei medici o degli analisti, dei tamponi, per le caratteristiche del virus, porta però delle linee d'ombra. Tanto è vero che un negativo, uno che ti sembra negativo, magari si sta positivizzando, poi dopo 48 ore è positivo e nel frattempo ha infettato altre persone. Quindi cioè qui, ragazzi, la cosa è molto semplice: se continua a questo livello di crescita esponenziale del virus, cioè, ci rendiamo conto che ormai il livello, e il mio grande augurio, dei nostri medici è tale che questo virus viene trattato in maniera molto diversa da quello che è successo drammaticamente a febbraio e marzo, ma ma dal punto di vista del contagio è quasi impossibile, perché un conto era fare la bolla, noi infatti abbiamo fatto una mini bolla, il calcio europeo e il calcio italiano e gli altri campionati si sono svolti in un clima di bolla, venivamo tutti da un lockdown, c'era l'elemento della vita all'aria aperta che sappiamo incentiva il contagio, e le squadre praticamente vivevano di casa e di centro sportivo, poi di trasferta, poi tornavano a casa. Oggi siamo in una situazione completamente diversa, è una stagione normale in cui si gioca una volta a settimana, una volta ogni quattro giorni, con i classici ritmi, con la gente che torna a casa, con le trasferte, con gli alberghi, con gli aerei, con i treni, insomma è un'altra cosa. La domanda è, Pier, se dentro questa gestione che dobbiamo accettare e vogliamo accettare, perché tra l'altro noi ci siamo sempre battuti perché ci fosse l'assunzione di un rischio ragionevole, se dentro questa gestione non si può eliminare il superfluo, e diciamo che le amichevoli delle nazionali, viene il sospetto che possano essere superflue, cioè ad esempio io questa settimana non discuto che i giocatori di Bosnia, Serbia, Slovacchia debbano andare in nazionale a giocarsi i playoff per andare all'europeo, perché fa parte, diciamo, di quella continuità di stagione che tu vuoi garantire. Però ecco, un'amichevole, e l'Under 21 non sta giocando un'amichevole, ma un'amichevole in assoluto come può essere stata Italia-Moldova dell'altra sera, magari possiamo anche discuterla. Posso dire una cosa, Giovanni? La vicenda Napoli ha ormai certificato che i giocatori del Genova hanno giocato con il Napoli due ne aveva e due sono rimasti e non c'è stato alcun, tra virgolette, contagio. Il Milan, che aveva due, è andato a Crotone, ha giocato a Crotone, è tornato, non c'è stato nessun contagiato nel Crotone. Voglio dire che l'idea che si avevano trasmesso i professoroni del CTS, che se giocavano il virus stappava bottiglie di champagne, è un'idea sbagliata. Allora, sentiamo... è un'idea sbagliata, però assolutamente, fortunatamente sbagliata, nel senso che non è che sei un positivo, cioè non è che c'è il contagio automatico aritmetico. No, per fortuna no, per fortuna no. Però invece la vita quotidiana, con i ritmi che sono diversi rispetto a quelli di quel finale sincopato di stagione, tutto in un mese e mezzo, vediamo che fanno sì che ogni giorno quasi ci sia notizia di qualche nuovo positivo in carriera. Questo, Pier, ha ragione Giovanni, bisogna evitare il superfluo non solo agonisticamente, credo, ma nella vita di tutti i giorni. Potevamo evitarci l'amichevole dell'Italia dell'altro giorno, sì. Però cioè, non è che se non le partite stagionali invece che 60 diventano 57 la situazione cambia in maniera strutturale. Poi sono d'accordo in questo momento tutto ciò che, per questo dico che secondo me bisogna ragionare su un piano B, ma non per farlo, per averlo pronto, certo, avere una cornice sulla quale poi gentilmente che non poi, si organizza, che poi Pierluigi sono le logiche che hanno usato e sono stati bravissimi i nostri dirigenti a partire da quelli della Federcalcio quando hanno nei momenti più drammatici, quando nonostante l'opinione pubblica contraria si industriavano per portare a termine una stagione così come poi è stato fatto con successo. Fermiamoci un secondo che è uno stacco, poi c'è Armando Damas e continuiamo a parlare. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno Armando. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, mi dica. Senta, un paio di considerazioni veloci. La prima, se fosse stato contrario, non a Juventus-Napoli, ma Napoli-Juventus, l'ASL di Napoli avrebbe potuto fermare la partita. E l'altra cosa, fortunatamente c'è stata la pausa della nazionale. Se non ci fosse stata la pausa della nazionale, secondo me ci sarebbe stato un gran confusione, perché la domenica successiva andava rimandata l'altra partita. Perché? Per i 15 giorni della quarantena. Peggio ancora se ci fosse stato un turno infrasettimanale. Ma guardi, lo dico, l'ho detto l'altro giorno, che insomma, sulla base delle dichiarazioni dell'ASL di Napoli, dei dirigenti dell'ASL di Napoli, che abbiamo in parte sentito noi, ne abbiamo sentiti alcuni, altri sono stati intervistati, loro dicono no, noi abbiamo fatto la scelta giusta, sono gli altri che dovrebbero fare come noi, quindi di fatto se le storie stanno così non gioca più né il Napoli né tutti gli altri. Non credo sia così, credo soltanto che in questo momento ci sia una confusione pressoché indecifrabile. Poi c'è un tema sui tempi di recupero, ragazzi, perché quello che dice Fagiano è abbastanza indicativo, cioè da Ibra che al momento è ancora positivo, cioè qui veramente c'è un tema di, qui non è il recupero, il problemino alla caviglia o l'affaticamento muscolare che lo risolvi in due settimane, poi torni e come torni, quindi insomma mai, l'abbiamo detto, la Parigi-Dakar, la situazione va detto, si sta complicando in maniera abbastanza clamorosa e abbastanza improvvisa, perché insomma la situazione a livello proprio anche di numero di casi è completamente diversa rispetto a due giorni fa. Bisognerà valutare di momento in momento a seconda della situazione. È giusto, secondo me, lo ribadisco mille volte, che il mondo del calcio si ingegni nei limiti del rischio ragionevole su come andare avanti, perché è il discorso che facciamo ogni giorno, è lo stesso pensiero che hanno gli sparatori, è lo stesso pensiero che hanno... No, ma indubbio, valgono le parole che ha detto Giovanni prima, no? Cioè, l'alternativa tra la grande difficoltà e il nulla è nulla, appunto. Intanto, Carlo, se vuoi proviamo a dare due notizie. Una è ufficiale, confermiamo dunque che tra i tre contagiati, due giocatori dell'Under 21, di cui si è data notizia questa mattina, uno dei due giocatori è Matteo Gabbia, difensore del Milan, lo ha comunicato ufficialmente il Milan. E la seconda che stiamo cercando di verificare è che potrebbe essere stata rinviata Islanda-Italia Under 21, tutti i giocatori di cui stiamo parlando a partire da Bastoni erano in nazionale con l'Under 21 in trasferta di Islanda, che era in programma questo pomeriggio alle 17.30, adesso cerchiamo conferma. Sì, questa è una notizia importante. Quello che voglio dire è che insomma non è granché plausibile. Insomma, si discute molto sul ruolo mediatico dei virologi, no? E su questo mi importa relativamente questo dibattito. Però in un clima di casino come questo e di paura come questo, se Galli, illustre virologo, dice che il protocollo calcistico è inadeguato, scoppia l'inferno. Quello che dico io è che se non va bene lo cambino e ci facciano sapere. Però mi sembra che si debba usare grande cautela e grande attenzione in questo momento anche nel valutare queste situazioni, no, Franco? Posso darti delle cifre? Sì. Allora, le dico perché tutti siano al corrente. 23 marzo 2020, nuovi positivi 4.789. 8 ottobre 4.458. Siamo qui. Decessi. 23 marzo 601, 8 ottobre 22. Tamponi, 23 marzo 17.000, 8 ottobre 128.000, percentuale 3,5, percentuale del 23 marzo 28%. I numeri vanno non soltanto elencati, vanno letti. Sì, tu hai ragione, è un problema di comunicazione. 3204. Franco, però va anche letto il fatto che quel numero di morti terribile di marzo era dovuto al fatto che venivamo da una parte ancora più acuta dell'emergenza, e come sai purtroppo il dato sui decessi ovviamente segue di qualche settimana quello del contagio. Quindi io spero che tu abbia ragione, spero che l'ottimismo, e fai bene sicuramente a dire che oggi si fanno molti più tamponi rispetto a prima, questa cosa va detta. Io ho grande fiducia, grande speranza nella medicina e nella maggiore esperienza che hanno i medici in questo momento di fronte al virus, questo è il vero tema fondamentale. La nostra maggiore organizzazione e preparazione rispetto al passato e la maggiore preparazione di medici e infermieri di fronte a questo tipo di... Qui non c'è da essere pessimisti o ottimisti, qui c'è da leggere i numeri e da classificarli. questo è quello che bisogna fare. Franco, la legge dei numeri è che ci sono ieri il doppio dei contagi di due giorni prima, cioè in due giorni. Quindi speriamo che fra due giorni non abbiamo 8.000. I tamponi sono 128.000. Sì. Capito? Rimane comunque particolarmente delicato il tema della comunicazione in questo momento. Ma penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Cioè ragazzi, penso che dobbiamo essere lucidi, razionali. Sicuramente il fatto che nel nostro paese rispetto ad altri ci siano pochi morti è qualcosa di molto incoraggiante, però insomma attenzione, perché quello che sembrava vero a settembre c'era una lineare, per un mese siamo stati intorno ai 1000, 1200, 1400, 1300, 1500 casi. Adesso da qualche giorno a questa parte, da una settimana a questa parte abbiamo triplicato e raddoppiato in due giorni. Quello che ti dico è c'è un protocollo su questa cosa, è evidente. Tornando al discorso del calcio, Giovanni, abbiamo un protocollo di cui stiamo testando la consistenza. Se non va bene si cambia, e questo è stato detto da più parti, no? Perché è qualcosa di vivo e di in divenire. L'unica cosa è che se si fa polemica intorno alle regole, allora non ne usciamo. Questa è la mia sensazione. Io intanto è ufficiale che è stata rinviata Islanda Italia Under 21, era in programma alle 17 a Reykjavik, quindi in Islanda, e sta per arrivare il comunicato, ma insomma è così. E dunque il ragionamento sul protocollo io credo debba essere fatto partendo da questo presupposto. E il protocollo è stato scritto a giugno e in generale la gente non lo conosce, perché l'ha scoperto qualche giorno fa cercando di capire che cosa prevedeva il protocollo qualora ci fosse una positività, e quindi tutte le discussioni su Zielinski, il Napoli, la bolla, la Juventus, quelli che sono andati via, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il protocollo è una cosa molto complessa, che norma l'attività e la vita di tutti i giorni del cosiddetto gruppo squadra. Ecco, l'impressione forte che si è avuta, che hanno i vertici del calcio, che hanno chi sta vicino al governo e onestamente che ho anch'io da osservatore esterno, è che nelle ultime settimane, sulla spinta di quella curva piatta di cui parlava Pier, ci sia stato un po' di lassismo, ed è stato un errore mortale, è stato un errore che in questo momento si paga, perché il calcio è finito sotto schiaffo. La questione di Juventus-Napoli ha aperto la porta a tutti quelli che volevano rivedere quel protocollo e hanno sempre l'idea che il calcio si possa fermare. Adesso è difficile risalire quella china, perché con una diffusione sempre maggiore statisticamente del virus, che colpisce anche il mondo del calcio, che non può essere un mondo a parte rispetto a tutto il resto della socialità che viviamo noi, è chiaro che adesso è difficile piegare quella curva senza prendere decisioni drastiche. Quindi bisogna fare un solo ragionamento, il ragionamento che bisogna assumersi un rischio ragionato, che bisogna mettere su due piatti i rischi di salute e i rischi economici, esattamente come si fa per i ristoranti, per qualunque attività, e a mio parere il calcio deve andare avanti, ma dentro questo ragionamento bisogna tornare a un'applicazione feroce di tutto il protocollo, non solo di che cosa succede quando c'è una positività, certo. E bisogna evitare le cose che in questo momento sono inutili. Dentro ci metto, ieri l'ha detto anche il presidente Gravina, che in questo momento continuare a pensare di parlare di stadi aperti è una follia. Sì, in questo momento certamente e forse, sì. E forse, scusate, sul calendario si potrebbe anche aprire un ragionamento, nel senso che i tanti giorni relativamente che passano fra una partita e l'altra fanno sì che ovviamente le occasioni di contagio aumentino, quindi forse si potrebbe, ma ripeto, speriamo che adesso il dato si normalizzi, sicuramente abbiamo fiducia nella medicina, eccetera, eccetera. Però è chiaro che la situazione va monitorata. Se dovesse continuare questo tipo di crescita esponenziale in Italia e nel giro, e ovviamente anche nel resto d'Europa, io credo che alla fine ragionare su dei mini slot per accorciare il tempo, su delle mini bolle per poter svolgere vari momenti, per esempio delle competizioni, potrebbe essere una soluzione di maggiore interesse. In pratica noi l'anno scorso in un mese e mezzo abbiamo fatto 12 giornate di campionato in un clima di sostanziale sicurezza, con le squadre molto controllate. La Champions League è stata fatta praticamente nel giro di 15 giorni con una formula nuova. Insomma, secondo me bisogna un pochino cominciare a ragionare, così come nei momenti più difficili del lockdown si ragionava, e io ero fra quelli che batteva le mani, si ragionava su una ripartenza, perché ripeto, il calcio non fa eccezione, quindi tutte è nella natura umana ed è positivo ed è ammirevole il tentativo di provare a ripartire dalle difficoltà, però al tempo stesso in un momento come questo di potenziale rischio bisogna secondo me anche ragionare su sui possibili piani B, perché altrimenti rischiamo di farci non ripensare. Una cosa, a questo punto Islanda-Italia rinviata è una uscita dal protocollo, o sbaglio? Perché comunque 13 giocatori con un portiere c'erano. È così. Determinata da ragioni di necessità e urgenza. Adesso cerchiamo di capire per quale motivo è stata rinviata. Ora è intuitivo il motivo, però dobbiamo capire che cosa abbia prevalso. Mi racconta qualche collega che segue l'Under 21 che i protocolli islandesi sul Covid sono rigidissimi e questo ad esempio ha chiuso la trasferta a tanti giornalisti che di solito seguono la nazionale Under 21 nelle sue trasferte. C'è da capire se diciamo è stata la UEFA a muoversi o se ha dovuto accettare un'imposizione dalla federazione islandese, quindi ereditarla dal governo islandese e da quelle che sono le norme che ci sono lì di contenimento del Covid. Io questo in questo momento non lo so, fa parte del racconto di questa vicenda. Chiaro, ma anche questo è un precedente. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Ciao, scusami, posso soltanto dire una cosa velocissima. Certo. Che nel famoso comunicato del Milan a proposito delle perdite c'è un finale che secondo me vuol dire tante cose. Sì. E dice: razionalizzazione dei costi a cominciare dalla riduzione del monte ingaggi stipendi dei giocatori e del top management. Quindi questo significa che sia gli stipendi di Gazzidis e a scendere di Maldini eccetera, sia il rinnovo di Donnarumma che parte da più 6 milioni che di Calhanoglu non sono così scontanti. No, non lo sono certamente, ma d'altra parte quei numeri lì parlano chiaro. Grazie Franco, a presto. Ciao, un abbraccio. Borsa, torniamo. Mi dai idea che il contagio non è in campo, il contagio avviene più quando si trovano nel ritiro, nello spogliatoio e tutte quelle cose lì. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. No, signori, bisogna che voi prendiate e vi mettiate il cuore in pace. C'è un'epidemia, quindi non è che il giorno prima, cioè ieri, siete lì a perorare la causa di portare gente allo stadio e adesso state criticando la gestione dei campionati come è stata fatta finora. Su. WhatsApp 349-238-6666. Alla compagnia si è aggiunto Dario Ricci dall'Overtime di Macerata, Overtime Festival. Ciao Dario. Ciao Carlo, ben ritrovati ragazzi. Ciao, ma soprattutto una guest star, abbiamo 5 minuti. Antonio Cabrini, lo saluto. Una domanda a testa, una considerazione a testa con Antonio. Ciao. Ciao. Ciao, la mia è soltanto gli auguri per ieri. Ieri hai compiuto gli anni. Grazie. Quindi con 24 ore di ritardo te li faccio volentieri. Poi ti lascio per Luigi Pardo. Pier. Grazie. Sì, no, io volevo rispondere a Radio Swiss, ma insomma, la presenza di Antonio mi fa impazzire. E anche a parte mi sono la chiave, ti devo dire la chiave, Dario. Questa vabbè, formazione di servizio che la so portare via dall'albergo. No, volevo sapere da Antonio, lui che lettura dà insomma di tutto quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, che purtroppo cambia in tempo reale anche molto repentinamente. Beh, quello che penso è che comunque il calcio ne esce sconfitto alla base, perché comunque non si riesce a trovare una quadra tra la federazione, tra la Lega, il governo, le ASL, quindi purtroppo sta andando incontro a delle situazioni poco piacevoli, perché ama il calcio e naturalmente in questo momento ci vuole sicuramente del buon senso per raggiungere quell'equilibrio che possa far continuare il calcio in una certa maniera, in maniera ideale. Sulle rotte della Parigi-Dakar, Giovanni. Ma guarda, io voglio parlare di calcio con Antonio, che ha una vita trascorsa con vari ruoli attaccato alla maglia azzurra, e volevo chiedergli che impressione gli fa vedere questa nazionale di Mancini, per quanto potesse valere anche l'amichevole dell'altra sera, insomma, che sensazioni vive? Beh, indubbiamente una squadra che nell'ultimo, diciamo, biennio, da quando Mancini ha preso in mano la nazionale, ha ricreato quel po' di entusiasmo che ha riavvicinato soprattutto i tifosi alla maglia azzurra. Questo, diciamo, che è il primo intento raggiunto da Mancini. Poi naturalmente piano piano ha tirato fuori dei giocatori che magari addirittura poco conosciuti, ma che a livello di nazionale hanno dato un ottimo rendimento, tant'è vero che i risultati fino a questo momento sono sempre stati molto, molto positivi. È chiaro che si aspetta adesso il momento decisivo, il prossimo europeo, per vedere, per dare una giusta valutazione a questa squadra, perché poi in europeo ci saranno nazionali sicuramente di livelli superiori a certe nazionali che ha incontrato Mancini e la sua squadra, e quindi lì ci sarà il vero responso sul gruppo. Ecco, è stato bravo Mancini perché ha aspettato certi giocatori che magari nelle squadre di appartenenza, nelle squadre di club, la domenica si siedono in panchina e poi vengono chiamati nazionali. Quindi ha avuto ragione, perché comunque li ha fatti crescere, e questi giocatori pian piano hanno anche acquisito e riuscito a conquistare un posto titolare nella propria squadra. Sì, percorso un po' inverso. Dario, tu Antonio lo vedrai dopo, anticipo una domanda. Sì, lo aspettiamo a braccia aperte qui a Macerata all'overtime. Antonio, può essere questo, sperando che poi tutto in qualche modo si aggiusti sugli aspetti ben noti, l'anno dell'Atalanta? È un'eresia dire che questa Atalanta può davvero vincere lo scudetto, squadra che tu conosci bene. Tu. Da dove tutto è cominciato anche per te, Antonio? Sì. Beh, dire l'anno dell'Atalanta è un po' riduttivo, concedetemi il termine, perché comunque sono questi, almeno gli ultimi tre anni, sono gli anni dell'Atalanta. È vero che non ha raggiunto la vittoria di uno scudetto, però indubbiamente è una squadra, una società soprattutto, che sta lavorando in una maniera incredibile sia col settore giovanile che con i giocatori di prima squadra, ha un ottimo allenatore e soprattutto è una squadra che quando gioca gioca per lo spettacolo, tant'è vero che se l'avete visto nei vari risultati, ne fa 5, ne prende 2, cioè non è la squadra che dice vinci 3-0, 4-0, 5-0, 3-0, 4-0, no, concede anche in fase difensiva, concede qualcosina all'avversario, però è straripante nei confronti dell'avversario, e quindi ha questa grande forza. Ecco, mi dispiace che non è riuscito ad andare avanti l'anno scorso nelle competizioni internazionali, perché meritava di andare avanti, però io penso che abbia acquisito quella mentalità vincente, e con una società guidata come dal presidente Percassi, penso che possa far sempre bene. Tra l'altro, se non ricordo male, tu sei andato all'Atalanta, alla Juventus, dall'Atalanta insieme a Prandelli, o sbaglio? L'anno dopo è arrivato Prandelli, sì, ha fatto, diciamo, lo stesso percorso. Ah, sei andato prima tu? Però, sì, l'anno prima, però io all'Atalanta giocavo come terzino sinistro e come stopper, perché una volta c'era lo stopper c'era Antonio Percassi. Ah già, giusto. Hakimi o Hernandez in chiave derby? Ha detto da un grande esperto come te. Che cosa? Scusa, Hakimi o Teo Hernandez? Hakimi e Hernandez, sai che è uno dei motivi comunque del derby, e siccome quella fascia la conosci bene, comunque le fasce laterali le conosci bene. Guarda, io ho visto Hakimi ultimamente in una partita amichevole col Pisa San Siro, e devo dire che è sicuramente un elemento molto importante, ma a prescindere dal fatto che sia un ottimo giocatore, ma proprio ai tempi giusti per fare la fascia, molto bravo col piede a mettere in mezzo queste palle pericolosissime, e si inserisce nella giusta maniera, e quindi devo dire che è un giocatore, secondo me diventerà un giocatore molto importante per questa Inter. Ciao Antonio, grazie, ti aspettiamo presto. Ciao Antonio. Allora, io voglio utilizzare 30 secondi per far sì che Pierluigi e Dario si mettano d'accordo sulle chiavi dell'albergo, perché sono un po' preoccupato. No, le chiavi adesso le risolvo. Ieri sera serata bellissima con il distanziamento, con le mascherine, oggi e domani ancora Macerata, nel frattempo c'è anche Spezia di Gazzetta, stasera corono un sogno della mia vita perché faccio la cosa con Pizzo, Piccinini e Aldograsso, quindi sono felice come un bambino. Volevo dire, rispondere in 30 secondi a quel messaggio telefonico. Ha ragione l'ascoltatore, cioè è ovvio che oggi abbiamo, credo tutti, di fronte ai numeri che sono clamorosamente cambiati, poi ci auguriamo che ricambino al contrario, quantomeno che non crescano così tanto, però abbiamo delle situazioni diverse. Cioè il 20 settembre, con quella curva che sembrava flat, che sembrava tranquilla, con l'idea che eventualmente una impennata ci sarebbe stata soltanto con la cattiva stagione che in tanti dicevano, e con altri paesi che portavano le persone allo stadio si ragionava di quello. Oggi nessuno ragiona più su quello, perché la Serie A è piena purtroppo di giocatori positivi, e perché succedono delle situazioni, adesso scopriremo meglio sul rinvio di Islanda-Italia come nasce, ma da protocollo UEFA teoricamente con 13 giocatori e un portiere dovresti giocare. Cioè non siamo noi che cambiamo idea, cambia lo scenario, proviamo semplicemente con buon senso ad adeguarci. Magari cambieremo idea altre 100 volte, perché purtroppo cambiano i numeri, cambiano le situazioni e la velocità da parte di chi deve prendere le decisioni, noi contiamo poco, ma di chi deve prendere le decisioni, di a essere lucidi e nel riuscire a trovare un equilibrio a seconda di quelle che sono le situazioni è fondamentale. Per cui ha ragione l'ascoltatore, ma ci perdoni questa roba qui, saremmo dei fessi, dei cretini se non cambiassimo idea di fronte a un numero di contagiati che in due giorni raddoppia. Questo è chiaro, ma le dinamiche le conosci. Ciao Pierluigi, buon viaggio. Ciao. Dario, che fai oggi? Oggi programma ricco, perché è la giornata dei campioni del mondo, anche olimpici, perché c'è Antonio Gabrini, viene pure Alberto Cova, mito del mezzo fondo, quindi ci aspetta una bella giornata di sport, chiacchierate e anche qualche simpatica sbevazzata a tarda notte, perché overtime è pure quello. Quando torni ci racconti tutto, grazie Dario. Sì, magari porto pure un po' di salame e un paio di bottiglie. Bravissimo, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, ragazzi. Traffico, Giovanni, stai con me. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Senti Giovanni, nonostante tutte queste notizie che ci piovono come granate da tutte le parti sul fronte Covid, voglio chiederti una cosa che non c'entra nulla con tutto questo. Sarà un'abile mossa di marketing certamente, ma è anche sarebbe stata, perché questo condizionale adesso ve lo spiego, una buona dose di poesia di cui avremmo bisogno, no? Mick Schumacher su una macchina di Formula 1 al Nürburgring. Qual è il tuo pensiero su questo? Sarebbe stata una cosa bellissima, poi adesso spiegherai perché non si è potuta concretizzare, ed è un peccato, ma è soltanto rinviare un appuntamento. Magari non sarà al Nürburgring, magari sarà al Nürburgring, avrebbe avuto ancora un effetto maggiore, perché è a pochi chilometri insomma da casa. Però io credo che Mick Schumacher sia un predestinato, con tutto quello che significa questo termine, magari non a ripercorrere le tracce, le orme di suo padre, che è tanta roba, forse troppo, ma comunque a sbarcare nel mondo della Formula 1 e a portarci un terzo Schumacher dopo quelli che abbiamo già raccontato e vissuto. Quindi è una storia bellissima. Peccato che il tempo si sia messo di traverso quest'oggi, ma io sono sicuro che si tratta semplicemente di un arrivederci. La spiegazione è che gli dei dello sport sono storicamente capricciosi e anche un po' bastardi, no? Oggi Nürburgring sembrava la Padania a gennaio, cioè nebbia, pioggia, prove sospese, interrotte. Certo, ci sarà di nuovo, ci sarà Mick Schumacher su una Formula 1, magari con un po' meno di simbolismo, perché lì Nürburgring, casa sua. Kimi Raikkonen, che nel 2007 prese il testimone da Michael Schumacher alla Ferrari, tra l'altro ieri era il compleanno non solo di Antonio Gabrini, ma erano i 20 anni dal primo successo mondiale di Michael Schumacher su una Ferrari. Insomma, una ridda di simbolismi che probabilmente non si ripeterà più, ma forse ricorderemo anche per i capricci degli dèi dello sport e del tempo. Carmine da Foggia, poi chiudiamo. Ciao. Ciao. Dimmi. Ciao. Senti, io sono Carmine, quello che del messaggio dei Cicciugut, ricordi? Sì, come no. Grandissimo. Senti, volevo dare un consiglio a Ibra per quanto riguarda la positività. Se lui non la finisce di dire sono come a Bolton, non lo uccide più nessuno questo animale, lui uscirà sempre positivo. Sta dando fastidio Ibra. Quindi lui deve stare tranquillo, non si deve stressare più tanto con gli allenamenti, perché stressandosi aumenta la carica virale e batterica, quindi potrebbe incorrere ancora più positività con test. Giuro non lo so e mi arrendo su quest'ultimo fronte. Quanto al resto di non fare incazzare troppo coronavirus, può essere che tu un fondo di ragione ce l'abbia. Hai letto le ultime dichiarazioni, Giovanni, per chiudere e darci appuntamento a domenica, di Urbano Cairo? Noi come Serie A siamo in un calcio di guerra. Sì, è un calcio di guerra, è un'economia di guerra. Al momento c'è un protocollo che in qualche modo viene emendato per la partita Genoa-Torino, qualcosa che valga per tutti ed è stato deciso. Certamente credo sia molto importante che ci sia un'unione, siamo in una situazione senza precedenti. I calciatori oggi devono avere la consapevolezza che siamo in un momento particolare, che i loro comportamenti hanno una valenza particolare, ci deve essere un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti. Beh, secondo me ha ragione. Secondo me ha ragione, lo sottoscrivo in parte il discorso che facevamo anche all'inizio della trasmissione sul fatto di essere tutti uniti compatti. Io mi auguro che però questo valga non solo per i calciatori ma anche per i dirigenti. Noi abbiamo raccontato di De Laurentiis in questa settimana, abbiamo passato 2 mesi a raccontare di come Cairo fosse il capofila di chi non voleva ripartire in primavera, e quindi insomma che ci sia un atteggiamento responsabile, coerente e continuo da parte di tutti. Però ho apprezzato molto quando è intervenuto da noi il presidente del Torino e ha detto avevo torto in quella situazione, ovviamente aveva le sue ragioni eccetera eccetera, magari anche di bottega, però ammettere comunque che avessero ragione quegli altri è stato qualcosa di positivo. Dire ho torto e ho sbagliato è sempre difficile. Bravo. Come ci insegna Fonzi, no? È sempre complicato, significa dover fare un passo indietro, e quindi è positivo che l'abbia fatto e tutto quello che è successo dopo. Oggi è il momento secondo me in cui tutti gli attori del calcio devono veramente guardarsi negli occhi e uscire allo scoperto e dire che la cosa più importante è che tutto resti in piedi, perché altrimenti le conseguenze portano dei danni incalcolabili. Ovviamente al netto che la situazione rimanga gestibile, diciamo, dal punto di vista della pandemia complessiva. Chiaro. E io credo che questo sia il passo. Ci saranno dei banchi di prova, ci sono dei club che si avvicinano alla giornata del 17-18 ottobre con pesanti penalizzazioni dal punto di vista sportivo agonistico. Ecco, un banco di prova sarà vedere come reagiranno. Questa è la Parigi-Dakar. Beh, amico mio, preparati, domenica sarà dura, dalle 5 alle 7. Dalle 17. Ciao! Ciao! Ciao Giovanni Capuano, grazie anche a Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domenica e poi lunedì alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.